GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. E 15, buona domenica da Lorenzo Gerlinzoni e Rita Micoli. In questa edizione meridiana del giornale radio della TGR del Friuli Venezia Giulia, in apertura c'è la cronaca con le indagini in corso da parte dei carabinieri sul ferimento di una donna a Fiumicello, poi una operazione del soccorso alpino di Moggio Udinese e ancora la salute con le novità terapeutiche sulle malattie renali e le prospettive del trapianto in regione, una mostra a Maniago che racconta come nascono i coltelli che arrivano fino ai set hollywoodiani e lo sport con in primo piano la vittoria della pallacanestro Trieste a Treviso. E dunque, come avete sentito dal sommario di questo giornale radio, apriamo questa edizione con la cronaca. Sì, una trentenne è stata trovata ferita la scorsa notte verso le ore 22:15 a Fiumicello. La donna, che sarebbe una residente in zona, è stata ritrovata in stato confusionale per strada in via Zorutti. Presentava un trauma facciale ed era sfregiata in viso. Alla pattuglia dei carabinieri di San Giovanni al Natisone, facente parte della compagnia di Palmanova, che erano intervenuti sul posto per soccorrerla, la donna non è però stata in grado di riferire la circostanza nella quale si era procurata quelle lesioni. I militari stanno pertanto indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non si escludono ovviamente le ipotesi di aggressione e di violenza di genere. La trentenne è stata trasportata in ambulanza in ospedale a Palmanova in codice giallo. E c'è stato anche un intervento notturno di emergenza che si è concluso alle 5 di questa mattina per la stazione del soccorso alpino di Moggio Udinese, impegnata nel vallone Nurvi e Nulis, nelle Alpi Carniche Orientali, gruppo del Sernio Grauzari. È da qui che è arrivata nella notte una richiesta di soccorso da parte di due escursionisti di lingua tedesca che hanno detto di essere in difficoltà. I soccorritori hanno dovuto affrontare a piedi in notturna un lungo sentiero per raggiungerli, con circa un migliaio di metri di dislivello. Ulteriori particolari nelle prossime edizioni dei nostri notiziari. Cambiamo argomento. 1.800 pazienti in Friuli Venezia Giulia tra dializzati e in cura per malattie renali. Il punto del congresso ANED a San Daniele tra terapie e prospettive del trapianto. La malattia renale cronica, quella che costringe alla dialisi o al trapianto, una condizione che incide sulla quotidianità di vita di un paziente, obbligato in media a 3 sedute settimanali di cura per 4 ore ciascuna. Delle necessità, comprese quelle che riguardano il sostegno psicologico alle persone e alle loro famiglie, si è discusso al convegno annuale dell'ANED, l'Associazione Nazionale Emodializzati e Dialisi del Friuli Venezia Giulia, a San Daniele del Friuli. Oggi in regione sono 1.800 i pazienti in cura. Il Comitato del Friuli Venezia Giulia è stato fondato nel 1979, svolgendo un ruolo fondamentale per il miglioramento delle condizioni di cura dei malati renali e cercando di favorire l'apertura di centri dialisi in tutti gli ospedali regionali, con la nascita nel 1993 del Centro Regionale di Trapianto Renale. 25 anni fa anche l'apertura del centro dialisi Vacanza a Lignano, oggi invece chiuso, come chiuso da qualche tempo è il centro di Codroipo. Questioni sottolineate dal segretario regionale dell'ANED Valentino Adamo, che ha posto l'accento anche sulla mancanza di medici specializzati in nefrologia. Funziona e bene invece il centro dialisi di Udine, al suo 10° anno di vita. Giuliano Boscutti, direttore nefrologia dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, ha ricordato i numeri di quest'anno di trapianti: 53, di cui 7 da persone viventi, che hanno permesso ai pazienti un ritorno ad una vita normale. San Daniele del Friuli, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è stato insignito oggi a Washington dell'Ital Press Award, riconoscimento istituito dall'agenzia Ital Press per la valorizzazione delle relazioni tra Stati Uniti e Italia nel mondo degli affari, della cultura, dei media. Il governatore è stato protagonista con il ministro dell'economia Giorgetti e del già console generale degli Stati Uniti in Italia Ricker dell'incontro organizzato dall'American Chamber of Commerce sul tema della collaborazione e del rafforzamento dei rapporti economici tra Italia e Stati Uniti. Hanno partecipato al tavolo anche l'assessore alle attività produttive Bini e i rappresentanti di imprese pubbliche e private sia italiane sia statunitensi. Federica è anche salito sul palco della National Italian American Foundation, di cui il Friuli Venezia Giulia è regione d'onore per il 2024. Dalla passione per lo studio e la riproduzione di coltelli storici ai set dei film di Hollywood, a Maniago una mostra racconta il percorso di una realtà produttiva del territorio. Si potrà visitare ogni venerdì pomeriggio, sabato e domenica tutto il giorno sino al mese di febbraio la nuova mostra inaugurata oggi a Palazzo Attimis di Maniago, I Bagliori dell'Acciaio, progetto dell'Ecomuseo regionale Lissaganis con il Comune. In esposizione quasi 300 riproduzioni di armi antiche, opera del maestro Fulvio Del Tin. La famiglia maniaghese Del Tin ha avviato già nel 65 una significativa opera di ricerca e ricostruzione di prototipi di armi e armature antiche, da cui è nata un'attività produttiva inizialmente legata al mondo del collezionismo, ma che nel tempo è stata richiesta dalle grandi produzioni cinematografiche e televisive. Sono di Del Tin ad esempio le spade di Braveheart, Indiana Jones o della serie TV Caravaggio, ma anche da rievocazioni storiche e presidi didattici nei musei italiani e non solo. Obiettivo dell'amministrazione comunale: rendere la mostra permanente. Maniago, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste, Muggia, Eduina Aurisina, oggi la camminata tra gli olivi, una iniziativa di carattere nazionale per far conoscere l'olivicoltura del territorio e insieme l'importanza di una sana alimentazione. Una passeggiata per raccontare la produzione dell'olio proprio nel periodo della raccolta delle olive è l'obiettivo della Camminata tra gli Olivi, un'iniziativa nazionale a cui sul territorio hanno aderito i comuni di Trieste, Muggia, Eduina e Aurisina. A Eduina la passeggiata si svolge tra gli uliveti di Ceroglie e passa per una degustazione di extravergine in un'azienda agricola del territorio. A partecipare un gruppo di più di 50 persone. Tema di quest'anno il problema dell'abbandono degli oliveti, particolarmente grave attorno alla strada costiera e le conseguenze sulla tutela del paesaggio. Ma all'iniziativa partecipano anche la Fondazione Italiana Fegato e la Lega Italiana contro i Tumori per sottolineare l'importanza di una corretta alimentazione e delle proprietà benefiche dell'olio extravergine d'oliva per la salute. Il Friuli Venezia Giulia, spiega a Ceroglie l'agronomo Paolo Parmigiani, produce piccole quantità di olio ma punta sulla qualità. Quest'anno la raccolta è stata carica, positiva per le circa 800 aziende agricole del settore, dunque ci si attende anche una buona resa. Ceroglie, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. La pagina del tempo: cielo da poco nuvoloso a variabile sulla regione, le temperature a Trieste e Udine 19 gradi, a Pordenone 21,5, a Gorizia 18, a Tarvisio 17, Tolmezzo 16,5, Forni di Sopra 16 gradi, Piancavallo 11,5, sullo Zoncolan 12 gradi, sull'Ussari 9, a Grado 18,5, a Lignano 17. Ora le previsioni dell'ARPA. Per questo pomeriggio cielo in prevalenza nuvoloso con maggiori schiarite su bassa pianura, costa e sulla fascia alpina, specie di pomeriggio. Sulla fascia prealpina e sulle zone orientali non è del tutto esclusa la possibilità di qualche piovigine o qualche locale pioggia molto debole. Domani cielo variabile per la presenza di nubi basse, di notte al mattino e poi nuovamente alla sera probabili foschie o nebbie. Siamo allo sport. Basket in Serie A, Treviso beffata in casa da una Pallacanestro Trieste in forma smagliante. Il match al Palaverde ieri sera si è concluso 195 per il team di coach Christian con un rosso da 30 punti. Trieste ritrova Colby Ross, sbanca il Palaverde e torna a volare nel massimo campionato di basket contro una Treviso in crisi nera. Partita dove le due squadre corrono e tirano tantissimo e piuttosto bene e che si mantiene in equilibrio per i primi due quarti. A fare la differenza poi è il vistoso calo in fase realizzativa degli uomini di Vitucci, che subiscono il maggior peso atletico di Trieste. Il primo quarto è contrassegnato prima del break di Treviso, poi dal recupero altrettanto robusto degli ospiti che rimettono le cose in parità. Nel secondo quarto la partita ancora non trova un padrone e le due squadre a turno vanno avanti e recuperano. Treviso chiude alla fine in vantaggio di 5. I padroni di casa mettono a segno un nuovo break, ma ci pensano Ross, alla fine miglior marcatore con 30 punti, e Brooks a mettere le cose a posto. A quel punto a Treviso si spegne la luce, non entra più un canestro, mentre per Trieste sale in cattedra anche Yutov con due triple di fila. A 10 minuti dalla fine i biancorossi sono avanti di 5. Sarà il vantaggio decisivo. Trieste continua a tirare bene, si porta sul più 8 e rintuzza con un controbreak di 5 punti a 0 l'ultimo tentativo di rimonta di Treviso. Alla fine è Ross, come è giusto che sia, a siglare la tripla del più 9 che chiude la partita. Poi gli uomini di Christian badano a controllare. Finisce 195, successo che vale il primo posto in classifica in attesa delle partite di Trento e della Virtus Bologna. Prossimo impegno per Trieste nel fine settimana in casa contro Varese. Andrea Vardaniga, TGR Friuli Venezia Giulia. In A2 ieri ha giocato anche Udine in trasferta, friulani vittoriosi con un punteggio di 96-74 contro Piacenza per un'ottima prova di squadra. Lo dimostra il fatto che 7 giocatori di Udine sono andati in doppia cifra segnando più di 10 punti. Miglior marcatore Ali Begovic con 18, è la quinta vittoria in questo campionato. Udine si mantiene nel gruppo di testa. Prossimo impegno domenica sul campo di Avellino. E nel volley femminile di Serie A1, fischio d'inizio questo pomeriggio alle 17 per il match tra la CDA Talmassons e il Megabox Vallefoglia nella cornice del palazzetto di Latisana. Entrambe le squadre reduci da una vittoria. In A2 pallavolo maschile invece la Tinet Prata gioca sul campo di casa questo pomeriggio alle 17.30 contro Porto Robur Costa. Ed è tutto per questa edizione domenicale del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Alla parte tecnica Carlo Morello e Caterina Cabrelli. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso, da Lorenzo Gerlinzoni e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e ancora l'augurio di una buona continuazione di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.